Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24, ben ritrovata Ivana Di Martino. Ciao, buona domenica a tutti. Allora, nel nostro girovagare tra le ripartenze delle varie attività, nelle ultime settimane abbiamo parlato di prospettive future per la corsa su strada, della ripartenza dell'atletica leggera in pista e della corsa in montagna. Oggi è la volta del triathlon, che da pochi giorni ha dato il via libera al ritorno all'attività agonistica, attenendosi a un lunghissimo protocollo di sicurezza che elenca le misure che devono essere adottate dagli organizzatori e dagli atleti stessi per lo svolgimento in sicurezza delle gare. Gare che attualmente hanno il via libera, ma non un calendario, che probabilmente arriverà dopo il prossimo Consiglio federale in programma tra circa una settimana, e nell'attesa noi oggi parliamo di triathlon, appunto, e lo facciamo con l'azzurra Alice Betto. Benvenuta. Grazie, buona domenica a tutte. Come stai? Bene, un po' caldata. Ah, okay, come tutti, insomma. Allora, finalmente si torna alle gare, non sappiamo quando, ma sappiamo quantomeno come. Sì, in che senso come? con le modalità, insomma, di restrizione legate all'emergenza virus, per cui distanziamento sociale, partenze scaglionate. Sì, in realtà abbiamo delle gare in calendario, però siamo ancora in attesa di conferme, di saperne di più, insomma. Io spero che si possa tornare alla normalità, degli eventi sportivi. Quindi adesso ti stai allenando, e qual è la tua settimana tipo adesso, in questo momento? Ma adesso ho ritrovato piano piano la routine che avevo prima del lockdown, quindi allenamentitutte le settimane, tutti i giorni, 7 su 7, dalle 3 alle 6 ore al giorno, quindi in linea generale, diciamo, mi alleno sempre, tutti i giorni la settimana. Poi per quanto riguarda nello specifico nuoto, bici, corsa, suddivido gli allenamenti in 4-5 giorni alla settimana pedalo, 4-5 corro e 5 sedute in piscina, quindi in linea generale più 2-3 palestre. Questa è la routine abituale. Ricordiamo ai nostri ascoltatori qual è la tua specialità. Certo, io sono un'atleta di triathlon. La distanza, diciamo, che prediligo è il triathlon olimpico, quindi sono 1500 metri a nuoto, 40 km in bici e 10 km di corsa. Poi in realtà svolgo anche gare di triathlon sprint, quindi la metà della distanza, 7,50, 20 e 10. Tu sei anche in nazionale, no, di triathlon, siete 4 donne e un uomo, le donne hanno una marcia in più? Detto così è brutto, sinceramente. Però può essere anche la verità, no? Dice. Ma sì, va a periodi, insomma, come tutti gli sport. In questo momento le donne sono più forti. Però non è detto che sarà sempre così. Anzi, speriamo che anche gli uomini si facciano avanti. Ricordiamoci, sei tu, c'è Anna Maria Mazzetti, Angelica Olmo e Verena Steinhauser, e tra gli uomini, insomma, esatto. Alessandro Fabian, insomma. Sì, sì, poi anche tanti atleti giovani che stanno crescendo e sicuramente hanno bisogno di fare ancora tanta esperienza, e che vedremo magari fra 2-3 anni, ecco, alle prossime Olimpiadi, sempre se ci saranno. Ecco. In attesa delle Olimpiadi. Tu che programmi avevi per questo 2020? Appunto. Ma diciamo che, come tanti atleti, aspettavo di raggiungere, diciamo, l'obiettivo che da anni continuo a rincorrere, che sono le Olimpiadi. Quindi ci speravo, anche perché la qualifica praticamente ce l'avevo in mano, però si tratta di aspettare, non è un problema, visto che sono anni che aspetto. Infatti, siamo... un anno in più, un anno in meno, non mi cambia ormai. Sei un po' sfortunata, lo possiamo dire. Hai mancato le Olimpiadi di Londra e di Rio 2016 per un infortunio. Sì, sì, spesso parlo più delle mie sfortune che delle mie fortune. In questo sport, però devo dire che se sono qui ancora a 32 anni è perché comunque mi ha dato anche tante soddisfazioni il triathlon, e non solo delusioni. Ricordiamo, Alice, tu parti dal nuoto, giusto? Io sì, sono stata nuotatrice per tanti anni, ho iniziato quando ero proprio bambina, poi ho smesso l'ultimo anno del liceo, ho cambiato radicalmente vita per 2 anni, mi sono iscritta all'università, ho studiato all'Accademia di Belle Arti di Brera, in restauro, e quindi ho una laurea appunto in restauro, e poi a 22 anni ho scoperto il triathlon, quindi relativamente tardi, grazie al mio ex allenatore di nuoto, Gianni Leoni, che a parte il fatto che comunque nonostante io abbia smesso a 17 anni di nuotare, ho sempre mantenuto ho sempre praticato nuoto anche per conto mio, perché è una cosa che mi è sempre piaciuta fare. Però ovviamente avevo cambiato strada, avevo altri obiettivi nella mia testa. Poi con il mio fidanzato, tuttora marito, abbiamo iniziato a correre. E parlando appunto con il mio ex allenatore di nuoto, gli ho detto: sai, sono riuscita a correre 3 maratone. Lui è rimasto abbastanza stupito, perché diciamo che un nuotatore con la corsa non va tanto d'accordo. Sì. Invece a me era venuta abbastanza naturale. E così ho iniziato, diciamo, non è che è stata proprio una mia decisione quella di intraprendere questa disciplina, diciamo che mi hanno un po' buttato a forza, ecco. Mi hanno detto: dai, prova a fare triathlon. Io non avevo la più pallida idea di cosa fosse il triathlon, e infatti la mia prima gara è andata in maniera disastrosa, nel senso che non sono neanche partita. Mi sono fatta proprio prendere dal panico, essendo comunque un nuoto diverso da quello a cui ero abituata, quindi un nuoto in acque libere, un nuoto di contatto, acqua fredda, eccetera. Tanta gente, insomma, una situazione che non ero abituata ad affrontare, mi sono proprio ritirata. E però da lì è scattato proprio un qualcosa, perché si vede che la competizione, o comunque l'agonismo, ce l'ho dentro di me. Quindi alla fine di questa gara, che poi non è stata neanche una gara, sono rimasta talmente male, perché ho detto: non è possibile che non sia riuscita neanche a concluderla una gara, cioè anche ultima, ma almeno portarla a termine. E così mi sono iscritta ad un'altra gara e l'ho vinta. La tua prima gara di triathlon è un po' l'inizio della mia carriera. Sì, però è stata una gara di triathlon un po' particolare, perché il nuoto era in piscina e non in acque libere. E quindi diciamo che ero nel mio habitat, nel mio ambiente. Questo può essere anche un consiglio per gli amatori, no? Iniziare magari con una gara non in acque libere ma in piscina, perché la principale difficoltà sappiamo per gli amatori che si approcciano un po' a questo nuoto in acque libere, dove arrivano pugni da tutte le parti, tra l'altro, ogni tanto. Esatto, se non si è abituati si rimane un po' traumatizzati, sicuramente. E come ti sono sembrate poi le maratone? Nel senso che appunto arrivando dal nuoto tu hai iniziato e hai detto: ok, voglio provare a fare una maratona. E così, insomma, giovanissima hai fatto una maratona. Qual è stata la tua prima maratona? Allora, la mia prima maratona è stata a Verona, poi Padova e Milano. E in ogni maratona ho tolto praticamente 15 minuti, più o meno, 10 minuti. Un sogno per tutti, insomma. 10 minuti, sono arrivata a correre la maratona di Milano in 3 ore, senza ovviamente tecnica, senza allenamenti specifici, correndo così in maniera proprio autonoma. Senza appunto fare nessun tipo di lavoro specifico, che per un maratoneta è una cosa completa, fuori di testa, diciamo. Eri un po' predisposta, no? Tra l'altro gli amatori fanno più o meno il contrario quando si approcciano al triathlon, no? Iniziano con la maratona, continuano con la bici e poi si tuffano in acqua, diciamo. Esatto, sì, normalmente è così il percorso. E cosa serve per iniziare a fare triathlon? Intendi a livello di materiali? In generale, insomma. Cioè. O di doti fisiche. Doti purtroppo non tutte le abbiamo. Tanta forza di volontà e soprattutto bisogna essere predisposti a quel tipo di sforzo. Bisogna apprezzare lo sforzo, bisogna viverlo, bisogna avere una buona relazione con la fatica, diciamo. Esatto. Ma È rimasta sempre il nuoto la tua disciplina preferita o hai cambiato anche idea? Cioè adesso ti piace anche andare molto in bici e a correre? Ma allora, beh, il nuoto rimane sicuramente il mio sport preferito, nel senso che in acqua mi sento proprio bene, mi piace stare in acqua. Ecco, non per fare 8-9 chilometri come i nuotatori, eh. Bene in acqua fino a un certo punto, poi posso anche uscire. E ho iniziato ad apprezzare moltissimo la bicicletta, perché ho iniziato a vedere nella bici anche il viaggio, il tema del viaggio. Mi piace sfruttare appunto la bicicletta anche per vedere posti che non conosco. La cosa bella della bici è che anche quando viaggio per le gare posso spostarmi e visitare, tra virgolette, qualcosa anche i giorni prima della gara, senza affaticarmi troppo. Quindi è sicuramente una bella alternativa, non è solo allenamento. Ed è questa la cosa più bella secondo me della bici. Dove ti alleni tu, Alice? Io vivo e mi alleno a Roma, anche se sono nata a Varese, sono lombarda. Dal 2015 vivo qui e mi alleno al centro di preparazione olimpica del CONI e poi per il resto in tutto il mondo. Perché la mia base è qua, però ovviamente poi il triathlon mi porta ovunque, non solo per le gare, ma anche per gli allenamenti. No, sì, quello sicuramente, però pensavo magari lì a Roma tu hai qualche percorso di bici preferito, insomma. Ma a me piace andare al lago di Bracciano, mi piace molto il lago di Bracciano, quindi vado sempre un po' alla ricerca dell'acqua, perché essendo nata a Varese sono... Il richiamo comunque, è quello, sì. Sono molto affezionata ai laghi, anche se il lago di Bracciano è un po' diverso dal nostro lago Maggiore, il lago di Monate che è il mio preferito, che mi manca tantissimo, è un piccolo lago vicino a Varese, quindi uno dei miei giri preferiti sì, è sicuramente il lago di Bracciano. E come sta andando con questo caldo di questi giorni? Ma diciamo che in questo periodo ero abituata a stare in altura, quindi a 2000 metri, a Livigno, San Moritz, quindi è una situazione nuova che sto vivendo, però devo dire che stando a Roma mi sono abituata piano piano anche a questo caldo, lo sopporto sempre meglio. Poi quest'anno è stato particolare perché il mese di giugno è stato abbastanza fresco, e quindi siamo riusciti ad allenarci bene. Adesso bisogna stringere i denti fino alla fine di luglio. Ma sì. Alice, fai anche qualcosa di lavoro come restauro, appunto, che avevi detto che ti sei laureata in quello, oppure non? Magari potessi fare entrambe le cose. Purtroppo tutte e due richiedono tanto impegno, sacrificio, allenamento. Non sembra, ma anche il restauro è allenamento. Certo. Perché è un lavoro molto pratico, e quindi l'unica cosa che riesco a fare, diciamo, legata al mondo dell'arte, alla sfera dell'arte, è il disegno. È una cosa che a me piace tantissimo, mi è sempre piaciuta da fin da bambina, e quindi nei miei momenti morti, quei pochi che ho, dedico, diciamo, un po' di tempo al disegno, ecco. Che ho riscoperto soprattutto durante questo periodo di clausura. In chiusura, Alice, sono parlando di gare, è confermata la Coppa del Mondo ad Arzachena il prossimo 10 ottobre e gli europei di fine agosto in Estonia, sempre triathlon olimpico, questi con protocollo internazionale, quindi con regole meno stringenti, quantomeno ci potrà essere la scia, insomma tutte queste cose. Sì, speriamo appunto che vengano confermate. Mi piacerebbe, allora il campionato europeo non è nei miei programmi, però mi piacerebbe appunto essere presente ad Arzachena ed eventualmente anche a qualche World Series che hanno inserito in calendario, quindi speriamo davvero che si possano fare queste gare. avere un obiettivo aiuta, diciamo. Beh, certo, sì. Anche perché noi non lo facciamo solo per fitness, noi atleti, insomma, siamo abituati ad allenarci per un obiettivo, non solo per stare in forma. La parte più difficile, infatti, di questi momenti è non avere un obiettivo, insomma, cercare di mantenere alta la motivazione senza... Esatto, infatti io cerco di darmi, ho cercato anche in questi mesi di darmi dei piccoli obiettivi, dei piccoli step, magari su cose piccole su cui dovrei migliorare, degli aspetti, ecco, della preparazione su cui appunto dovrei migliorare, i miei punti deboli, diciamo, perché si può sempre migliorare anche nonostante, diciamo, l'età o comunque tutti questi anni di triathlon. Sì. Io sempre cerco ogni anno di darmi anche degli obiettivi all'interno dell'allenamento, non solo in gara. E ascolta, volevo farti l'ultima domanda, ma ce l'avrai, non so, così ce l'hai un po' in testa di fare un Ironman oppure lo escludi? Ma non escludo nulla, te lo dico, nel senso che... Quindi ce l'hai. Diciamo che la componente aerobica è una cosa che ho da sempre. Infatti, appunto, a 19-20 anni ho corso 3 maratone e mi piace anche questa sfida, perché alla fine è una sfida un po' con se stessi più che con gli altri, quindi è sicuramente un qualcosa che mi attira, mi incuriosisce, si vedrà, insomma. Per il momento sono ancora focalizzata sulla mia distanza, che è il triathlon olimpico, e quindi a maggior ragione che quest'anno non ci sono state gare, vorrei gareggiare ancora nel mondo World Series per un altro po'. In chiusura, oggi è domenica, cosa fa un triatleta di domenica? Ah, lungo in bici, di solito. Ah, lungo in bici. Lungo in bici. È l'allenamento della domenica. Affini l'abbronzatura da triatleta. Esatto, sì. Infatti ho proprio un bel segno sulle gambe, sulle braccia da triatleta. Per strada mi riconoscono. Grazie Alice Betto. Grazie a voi. E anche per oggi è tutto, noi ci fermiamo qui, ci risentiamo domenica prossima sempre alle 6.30, alle 16.15, poi quando volete ci trovate in podcast. Buona giornata. Buona giornata a tutti. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.